Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché con la lunghezza dei giorni e degli anni di vita ti procurano prosperità. Amore e fedeltà non ti abbandonino. Legali intorno al tuo collo, scrivili sopra la tavola del tuo cuore. Troverai grazia e buona fortuna agli occhi di Dio e dell'uomo. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sulla tua intelligenza. Tienlo presente in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non essere saggio ai tuoi occhi. Temi il Signore e fuggi dal male. Sarà medicina al tuo corpo, zampillo alle tue ossa. Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di tutti i tuoi averi. I tuoi granai saranno pieni di frumento, di mosto i tuoi strettoi riboccheranno. Non disprezzar la disciplina del Signore e al suo rimprovero non metterti contro, perché rimprovera colui che ama, come un padre, il figlio di cui si compiace. Beato l'uomo che ha trovato sapienza, l'uomo che ha incontrato intelligenza, che il suo guadagno è migliore del guadagno d'argento e migliore dell'oro è il suo frutto. È più preziosa delle perle e quanto puoi desiderare non le guaglia. Lunghezza di giorni è nella sua destra, nella sua sinistra ricchezza e onore. Le sue vie sono vie deliziose e tutti i suoi sentieri sono pace. Albero di vita per chi l'ha afferrata e quelli che la tengono sono beati. Il Signore con la sapienza ha fondato la terra, sostenendo i cieli con intelligenza. Per la sua scienza si sono aperti gli abissi e le nubi hanno stillato rugiada. Figlio mio, non partano dai tuoi occhi, ma custodisci prudenza e accortezza. Saranno vita per l'anima tua, ornamento per il tuo collo. Allora percorrerai sicuro la tua strada e il tuo piede non vacillerà. Quando ti coricherai, non avrai paura. Ti coricherai e sarà saporito il tuo sonno. Non temere il terrore improvviso né la tempesta degli empi quando si avvicina, perché il Signore sarà il tuo baluardo, proteggerà dal laccio il tuo piede. Non rifiutare il bene a chi lo chiede, quando è in potere della tua mano il farlo. Non dire al tuo prossimo, vai e ritorna, domani te lo darò, quando ce l'hai. Non progettare contro il tuo prossimo il male, quando lui si trova sicuro con te. Non litigar con un altro senza motivo se non ti ha fatto del male. Non invidiare un uomo violento e non scegliere alcuna delle sue vie, perché è abominio del Signore il perverso, ma conversa con gli uomini retti. Maledizione del Signore sulla casa dell'empio, mentre benedice la dimora dei giusti. Agli insolenti risponde con ira, ai poveri invece dona la grazia. Gloria erediteranno i sapienti, gli stolti invece possederanno ignominia.